Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi staremo in stretto contatto perché parliamo di pelle, della nostra pelle, che ci piaccia o no, è con lei che dobbiamo fare i conti, perché è lei che ci avvolge, ci protegge, ci unisce, ci separa. È con questo abito che cresciamo e parliamo, ci presentiamo, raccontiamo quello che abbiamo fatto, facciamo o sogniamo di fare. Ne abbiamo una sola. Credo che a qualunque età convenga prendersene cura. Siete d'accordo? Allora, se l'idea vi piace, restate in contatto. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24, così come i nostri esperti. Vi presento subito la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottoressa Serri, ne vorremmo sempre una diversa, perché sono poche le persone che sono soddisfatte della loro pelle. Ci lamentiamo se è secca, se è grassa, se tira, se non tira, se è liscia, se è segnata, ma dobbiamo fare i conti con quella che abbiamo, convincendoci che una bella pelle ben curata, protetta dall'esterno e dall'interno, ci rende attraenti, seducenti, anche se non è perfetta. Esatto, perché la ricerca della perfezione è molto frustrante. La pelle è un organo vivo, vitale, biologico, non è un pavimento liscio di linoleum, e la pelle proprio non è perfetta in nessun suo strato, perfetta secondo le concezioni di Photoshop. Brava, l'abbiamo detto insieme. La pelle è un organo straordinario, deve essere luminosa, deve stare bene addosso a chi ce l'ha, si rinnova in continuazione, dobbiamo farla rinnovare bene, dobbiamo rendere quello che mi diverto sempre a dire, i cheratinociti, che sono le cellule dell'epidermide, felici, che esprimano la loro felicità e non arrabbiati, permalosi, musoni. Urlanti, musoni, perché la pelle parla, sussurra, urla, ecco, la dobbiamo sempre far parlare, anzi cantare. 800 24 00 24, voi raccontateci da casa le imperfezioni, i punti deboli della vostra pelle e i nostri esperti vi aiuteranno a renderla più, i cheratinociti più felici, ecco, esultanti, ecco. Parlanti, cantanti. Intanto cominciamo a capire che pelle abbiamo, un passo fondamentale per imparare a prendersene cura, o meglio per tirare fuori il meglio. Allora, se pensate di avere la pelle secca, dovete, la vostra pelle ha queste caratteristiche. Il viso non è mai lucido, neanche sul naso, sul mento o sulla fronte. Il trucco resiste a lungo. Non sopportate l'acqua. Dopo il lavaggio la pelle tira, brucia, si desquama. La cute peggiora al vento, nei climi secchi, negli uffici con l'aria condizionata, in aereo. Ma forse qualcuno di voi sta pensando, no, non ho la pelle secca, la mia è una pelle grassa. La zona T è lucida, il trucco non tiene, la pelle è peggiore in caso di umidità, se usate troppe creme idratanti o nutrienti diventa più spenta, nel periodo premestruale spunta qualche brufolo. Non secca, non grassa, piuttosto sensibile. È secca, brucia, tira, si desquama. Il trucco, se non ipoallergenico e testato, sensibilizza ancor di più. La pelle non sopporta l'acqua, soprattutto quella calda. Peggiora dopo la detersione. E intanto che voi rispondete, voglio presentarvi il prossimo ospite che ci aiuterà a stare bene la nostra pelle, a prendere contatto con lei, a utilizzarla per il nostro benessere. Se vogliamo che altri accarezzino la nostra pelle, e lo vogliamo sicuramente, dobbiamo innanzitutto accarezzarla noi, ascoltarla, impararla a rispettarla come merita. In fondo si tratta dell'organo più importante del nostro corpo. Messaggi che ritroviamo nel libro della dottoressa Serri, Cambio Pelle, che ha scritto insieme a Fabrizio Duranti, un libro che racconta come prendersi cura di questo abito, di questo tessuto prezioso che ci avvolge, dottoressa Serri, ma anche con consigli del dottor Duranti per... Esatto, io mi sono occupata della parte della pelle e insegno a curarla in senso ecodermocompatibile, cioè a considerare la pelle un ecosistema da rispettare, quindi come usare e che cosa sono anche i cosmetici ecocompatibili, naturali, veri. Come riconoscere, come prendersi cura della pelle dall'esterno, che integratori scegliere. Invece il dottor Fabrizio Duranti, un mio collega molto atletico, si è preso cura della parte metabolica, dietetica, ma soprattutto della parte di fitness, come muoversi, come correre e come fare sport. Perché la bellezza della pelle dipende anche come ci sentiamo noi dentro la nostra pelle. Di questo parliamo con il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Roma, che ormai conosciamo bene. Buongiorno prof. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. È autore di tecniche complementari sportive, che trovate, un libro che trovate in tutte le librerie. Professor Tirelli, la pelle è molto più di un semplice mantello. Per stare bene la nostra pelle dobbiamo stare bene con noi stessi, e si dice, no? Sto bene, una persona mi piace a pelle, o sto bene nella mia pelle, proprio a sottolineare questo rapporto tra pelle e mente. Sì, infatti anche nella medicina cinese c'è questo strettissimo rapporto tra pelle, quindi barriera tra noi e l'esterno, ma anche con due organi in particolare altrettanto importanti per quanto riguarda la relazione interno-esterno, che sono i polmoni e l'intestino. Sono considerati in medicina tradizionale cinese energetica un unico sistema. Secondo me una piccola parentesi magari va fatta pensando a quello che è probabilmente la pelle, che è veramente la barriera tra noi e l'esterno, dato che anche nell'ambito dell'agopuntura o della medicina energetica si è visto che l'86% per esempio dei punti di agopuntura sono diciamo dei particolarissimi buchi, perché la vera traduzione dell'antico cinese Xuei Wei, che è il punto di agopuntura, in realtà è buco. Allora, questi buchi cosa sono? Sono innanzitutto a livello epidermico hanno un potenziale elettrico, hanno una resistenza inferiore a tutti gli altri. Cioè è chiaro che la pelle sono punti più sensibili. Più sensibili, perché la pelle ha una sua rispondenza a per esempio a stimolazioni esterni o rispetto alla sede anatomica piuttosto che all'umidità. C'è umidità, sì. c'è più resistenza a qualsiasi stimolo. Però in questi punti noi abbiamo invece dei tronchi venosi e arteriosi che sono particolarmente efficienti, e questi sono in collegamento con quella che è, diciamo, la sostanza fondamentale o matrice extracellulare. Che cos'è questa? È proprio quel mare di informazioni biologiche che compone il nostro interno. Quindi se io vado a massaggiare per esempio un punto, in realtà sto immediatamente informando l'organismo nella sua profondità e gli sto determinando un cambiamento. Quindi la pelle non solo è un po' il nostro biglietto da visita, come abbiamo sentito dire tante volte, e racconta quello che facciamo e abbiamo fatto, ma attraverso la pelle noi possiamo produrre benessere. E quindi, mentre con la dottoressa Serri oggi ci occuperemo di proteggere la nostra pelle, di idratarla, detergerla correttamente, di nutrirla nel modo migliore, con il professor Tirelli attraverso la pelle proviamo ad andare nell'interno e quindi a stimolare benessere, ad esempio con il massaggio. Sì, è come citofonare. Ok, io voglio entrare e voglio visitare la bellissima casa di Nicoletta Carbone, allora cosa faccio? Citofono, e poi l'informazione arriva. Bello, a lei. Questa mi piace, citofonatemi, 800 24 00 24. Essere belli fuori, e lo facciamo con i consigli della dottoressa Serri, riuscire a utilizzare la pelle come strumento di conoscenze, per aumentare il benessere, ma per mettere in relazione esterno-interno c'è un modo molto semplice, assolutamente naturale, che è il respiro. E qua con noi in studio abbiamo Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Esattamente come tu dici, il respiro è... Non ci è mai capitato di fare attenzione realmente a noi stessi fino a quando non abbiamo sentito mancare il respiro, magari proprio in quei momenti più difficili, in quei momenti nei quali siamo appunto più tesi e ci prendiamo meno cura di noi stessi. E cosa succede? Cadiamo in apnea e subito il nostro corpo ci manda dei segnali, quindi il nostro corpo inizia a sentirsi mancante di qualcosa, mancante di attenzione, di accudimento e anche di quella comprensione che richiamava anche la dottoressa Serri, verso una ricerca di imperfezione, accettare la propria imperfezione, i propri stati d'animo. Quindi lo yoga che cosa ci aiuta a fare in questi momenti? Ci aiuta a ritrovare uno stato di ascolto, ritrovare uno stato di ascolto dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, prendendo che si segnano proprio sulla che pelle, che segnano la nostra pelle. Ma molto spesso ci capita di incontrare qualcuno e di vedere che ha la pelle spenta, e poi di accorgerci, magari parlando con questa persona, che contemporaneamente sta vivendo un momento difficile, ha attraversato una malattia, tanti fattori che portano questa persona a creare uno stato di stress, quindi a lavorare anche in modo diverso sul proprio respiro. Molte persone non sanno respirare, si bloccano, infatti si bloccano. Andiamo molto in apnea e faremo degli esercizi anche di respirazione, dottoressa Serri. Attraverso la respirazione, attraverso le tecniche dello yoga, possiamo nutrire anche la nostra pelle, distenderla, rilassarla? È assolutamente fondamentale, sia per far arrivare a tutte le cellule del derma e dell'epidermide maggiore quantità di ossigeno, per cui se si respira bene il sangue circola meglio e arriva più nutrimento anche alle cellule, ma poi si rilassano i muscoli. Quando si è contratti, tesi, arrabbiati, si contraggono moltissimi muscoli anche del viso e vengono le rughe, oltre a lanciare dei messaggi al cervello che vanno a peggiorare l'arrabbiatura stessa. Quando si è rilassati, il viso proprio è disteso e le rughe non si impiantano. Volevo anche dire che il più importante, penso, atto terapeutico è la più semplice e come anche meno costosa cura di bellezza, è proprio la carezza e il sorriso. Quindi carezzare, farsi carezzare. Noi medici, quando carezziamo, e noi dermatologi in particolare, quando tocchiamo un paziente, facciamo un atto un po' magico, un atto terapeutico, un atto importantissimo. Dottoressa Serri, prendersi cura della nostra pelle passa attraverso gesti molto semplici, contatti, con il professor Tirelli parleremo anche di shiatsu, carezze come suggeriva lei, ma anche gesti che ci permettono di detergere delicatamente la nostra pelle, di passare la crema con un automassaggio. In altre parole, insomma, la pelle ha bisogno di essere coccolata, è un po' come succede a noi per la nostra dieta, anche la pelle ha bisogno di cose buone. Allora abbiamo pensato insieme alla dottoressa Serri a un quizzettone anche per voi oggi, ci siamo divertite, insomma, dovete dirmi quali, stia attenta dottoressa Serri se lo dico bene, quali di questi tre ingredienti che trovate nella formulazione di molti prodotti cosmetici è naturale ed ecocompatibile. Ve li dico, Pietro La Corte sta attento: paraffinum liquidum, dimeticone, olea europea. Ripetiamo: paraffinum liquidum, dimeticone, olea europea. Voilà. 800 24 00 24, chiamateci, rispondete a questo nostro quizzettone. Abbiamo per il primo ascoltatore che ci dà la risposta giusta e un po' anche argomentata il libro della dottoressa Serri e del dottor Fabrizio Duranti, edito da Sperling e Kufer, Cambio Pelle. Allora, dottoressa Serri, intanto abbiamo Michela da Torino e Massimiliano da Vicenza, buongiorno a tutte e due. Michela, buongiorno. Intanto volevo lanciare un appello di Omar che ci scrive: non mi trucco, non ho il ciclo e non uso creme di bellezze, sono un maschio, come faccio a definire la mia pelle? Chiami all'800 24 00 24, Omar e la dottoressa Serri le farà un piccolo interrogatorio in diretta. Intanto Michela da Torino. Buongiorno. Buongiorno, lei si trucca sicuramente, usa creme? Sì. Da sempre, perché ho sempre avuto questa tendenza alla pelle che tirava e quindi credo di aver cominciato intorno ai 14-15 anni a usare le creme. Michela, venga alla sua domanda. Sì, il mio problema è il contorno occhi, per quanto lo idrati, per quanto gli spruzzi acqua, per quanto io riesca a curarlo, comunque alla fine risulta sempre molto un po' accartocciato, sempre un po' secco. Anche a volte anche un po' segnato, pur avendo 40 anni e non dimostrandoli. Mi è piaciuto, perché noi siamo veramente terribili nel definirci. Michela, ho detto, è tutto accartocciato. Io non posso credere che il contorno di Michela sia accartocciato, ma lei evidentemente si vede così. Noi abbiamo uno sguardo che a volte è impietoso, ma cade in questa che è una zona molto delicata del viso. Sì, la percezione del sé è una cosa importantissima, ma comunque sì, effettivamente probabilmente la nostra amica ha una tendenza alla atopia o dermatite atopica, comunque alla zona, la cute del contorno occhi molto sensibile, cosa che può succedere. Io sconsiglio di applicare qualsiasi tipo di crema contorno occhi contenente i siliconi, che possono seccare ancora di più, che sono il ciclometicone, dimeticone, tutto quello che finisce in one in pratica, e anche gli acrilati, cioè l'acrilico. Quindi noi dobbiamo l'acrilico, perché leggere gli ingredienti è difficile, ma la dottoressa Serri con Skineco ha iniziato una sorta di battaglia, potete andare a trovare anche sul sito delle informazioni, informare per renderci più responsabili nelle nostre scelte. Esatto. Allora, quello che finisce in one non ci piace. Non ci piace. Ecco, l'importante anche nella è vita. Pulire, anche il trucco, sceglierlo possibilmente ecocompatibile. Il make-up si può usare benissimo, ma ecocompatibile. Struccare gli occhi con acque micellari detergenti, non profumate, formulate bene, che non brucino. Se appena appena bruciano non vanno bene. Poi sciacquare con acqua minerale o acqua termale e applicare. Ah, questa non la sapevo. Eh sì, perché l'acqua spesso è calcarea, comunque anche gli struccanti contengono molecole chimiche che, per quanto provenienti da chimica amica, possono talora dar fastidio, conviene sempre sciacquare. Se l'acqua è molto calcarea nella nostra zona, allora ci teniamo una bottiglia di acqua minerale vicino al lavandino, sì, ci si lava oppure tutti. Dell'acqua termale spray. Sì. Dopodiché si può applicare un contorno occhi e pensi un po'. Per queste situazioni di pelle molto secca, i prodotti migliori sono quelli formulati in modo ecodermocompatibile, testati, ipoallergenici. Naturale non vuol dire sempre ben tollerato dalla pelle, per questo che è importante che i prodotti siano ben formulati, con oli vegetali non sensibilizzanti, assolutamente formulati per la zona. E poi consiglio l'applicazione di colliri a base di acido ialuronico, perché il collirio all'acido ialuronico può essere molto utile, perché la piccola quantità che esce poi va a nutrire anche la zona subito immediatamente vicinissima. Fantastico. All'occhio. Allora, perché già lì vicinissimo all'occhio è meglio non mettere creme. Abbiamo già imparato, vero Benedetta, un sacco di dettagli che possono fare la differenza, ma aggiungiamo anche un po' di shiatsu. Professor Tirelli, una zona molto delicata, si segna, non solamente, e così poi scenderemo, no? Nel corso della trasmissione in altre zone, ci occuperemo anche della pelle del corpo, non solo del viso, ma professor Tirelli. Ma è una cosa molto bella, è il fatto che dopo una seduta di shiatsu, che di solito dura 45 minuti, un'ora, la persona si stupisce guardandosi allo specchio perché si ritrova con un viso completamente diverso. Questo proprio perché dopo digitopressioni sulla cute, sulla pelle, attraverso questo cambiamento, come dicevo prima, della parte esterna, ma in realtà di questa matrice extracellulare, si rinforza il corpo, si diventa più belli, cioè c'è una pelle molto più lucida, più luminosa, molto più viva, molto più giovane. Allora, ci sono per esempio due punti in particolare che magari per i radioascoltatori potrebbero essere interessanti. Sì, faccia come diventare un po' belli anche a noi. Autosciazzo. Allora, un punto si chiama intestino tenue 19 perché fa parte del meridiano energetico dell'intestino tenue ed è situato, per capirci radiofonicamente, sì, laddove, aprendo la bocca, noi potremo sentire nell'articolazione temporomandibolare un buchino. Ah. Proprio davanti al trago. Ce l'ho. Quindi quella parte anteriore dell'orecchio, tra lì e la mandibola. Ok, aprendo quindi la mandibola, io vado a massaggiare con una microstimolazione col dito indice questa zona. Questa mi rilassa completamente le pareti a livello laterale, quindi temporali, il massetere, questo grande muscolo sottostante della masticazione, e di conseguenza il viso inizia a rilassarsi, i muscoli sono più tonici ma rilassati, quindi non sono più contratti. Adesso per il secondo punto, iniziate allora, aprite la bocca, trovate il buchino, mettete il ditino, massaggi circolari, state lì. Essere e benessere. La natura ti dà la faccia che hai a 20 anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a 50 anni. Coco Chanel. Grande Coco. 800 24 00 24. Siamo tornati insieme. Secca, grassa, sensibile, che tipo di pelle pensate di avere e avete bisogno di consigli? Di consigli per nutrirla, coccolarla, carezzarla, farla vivere bene, ma secondo la filosofia un po' della dermocompatibilità. Dobbiamo mettere sulla nostra pelle ingredienti, prodotti che siano dermocompatibili, che facciano bene alla nostra pelle, ma facciano bene anche all'ambiente in cui la nostra pelle si muove. A proposito di pelle, torniamo nei punti strategici che ci illustra oggi il professor Tirelli, che ci ha lasciato a bocca aperta, ma... No, perché prima parlavamo per esempio del punto dell'intestino tenue 19. Perché? Perché l'intestino tenue è quell'organo che, metaforicamente parlando, discerne ciò che è utile da ciò che non è utile, ciò che deve essere tenuto, ciò che dovrà essere eliminato. E quindi è proprio un rapporto nella vita anche. Mi serve, non mi serve, mi è utile, non mi è utile. Allora, quando abbiamo una problematica a livello intestinale, anche la pelle ne manifesta sicuramente le situazioni negative interne. La stessa cosa però avviene laddove abbiamo delle situazioni di parecchie preoccupazioni. Molte preoccupazioni si riversano sull'organo, sul viscere, per meglio dire, dello stomaco. E lo stomaco è un altro di quegli elementi che, se sta bene, ci potrà permettere di contribuire ad avere una pelle più luminosa, più elastica, ma se avremo problemi allo stomaco potremo avere eritemi, ma sicuramente la dottoressa Serri ne saprà descrivere perché, meglio le cose. Ci descriverà la pelle che fa indigestione. E allora, a proposito dello stomaco, c'è un punto importante, lo stomaco 7 come punto, ed è situato sotto lo zigomo. È un punto che ha come caratteristica quella di sbloccare, per così dire, un po' tutta quella corazza muscolare del viso. Allora io prendo sempre gli indici come dita delle mani e faccio delle pressioni, digito pressione a livello orario, antiorario, quindi in senso orario, antiorario. Sentirò che c'è un punto magari di piccolo dolore proprio sull'osso zigomatico, ma anche sottostante, e segnala quindi, laddove vi sia questo dolore, una situazione di blocco. È un ottimo punto anche per permetterci di migliorare la qualità del pensiero. Tutto ciò che è eccesso di pensiero è anche indigestione eccessiva dello stesso stomaco, e quindi io cerco di rilassare, di far digerire meglio il mio stomaco. Sugli atleti, per esempio, è importante, perché laddove non vi è assimilazione dei principi nutrienti alimentari, non c'è neanche una fonte importante energetica per ovviamente esprimere il movimento. Ma siamo più carini o no? Sì, oltretutto i punti che sta dicendo l'amico Tirelli, quando faccio delle biorivitalizzazioni, per esempio, mi è stato insegnato, appunto, leggendo sia i tuoi testi sia da un altro amico osteopata, Ernesto Di Pietro, i punti che abbiamo chiamato di ecolifting, perché se tu vai a stimolare, iniettare anche dei biorivitalizzanti omeopatici con questi aghini sottili, quindi a fare una specie di agopuntura biorivitalizzante, non so se la fai, in certi punti dopo il viso proprio va su, è più disteso, è più bello. E dici, com'è possibile che con una fialetta omeopatica con delle piccole punturine... E invece perché la pelle risponde. Perché ha ragione, il citofono. Ecco, ma noi andiamo al citofono con Benedetta Spada, perché continuiamo il nostro viaggio attraverso la pelle, per usare la pelle per il nostro benessere e per leggere il benessere sulla nostra pelle. Dottoressa Spada. Anch'io concordo con Stefano Tirelli. Questo punto al di sotto, insomma, sui nostri zigomi, che noi possiamo picchiettare con gli indici delle mani, è un punto che utilizziamo spesso anche nella pratica yoga per distendere e allentare le tensioni della pelle, non solo del volto, ma anche di tutto il corpo, e al tempo stesso allentare i nostri pensieri, questo pieno di pensieri, questa indigestione che noi facciamo con quella che noi chiamiamo la disciplina della tenerezza. Quindi portiamo i nostri indici proprio sugli zigomi, puntandoli proprio come se volessimo citofonare a qualcuno, stiriamo verso l'alto le sopracciglia il più possibile e lo facciamo per una decina di volte con questa pressione costante. Nell'inspiro e nell'espiro allentiamo e lasciamo andare, e così che il nostro respiro divenga anche una carezza, ricordandoci che il respiro, come la pelle, non è solo nel viso ma in tutto il nostro corpo. Tommaso ci chiama da Latina, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che pelle ha lei? Ma io ho una pelle molto delicata, nel senso, sono un biondo, però la pelle da un po' sul rosaceo. E mi ricordo che da ragazzo prendevo bene il sole, mi abbronzavo, ma devo stare attento sempre, poi mi stellavo. Ma da un po' di anni a questa parte, adesso ho 54 anni, praticamente mi si sono formate delle chiazze rosse ai lati, tra gli occhi e le basette, o con desquamazione molto forte sulla fronte piuttosto che vicino all'attaccatura dei capelli, però soltanto in questa parte del corpo, perché durante su tutta l'altra parte del corpo praticamente liscio. È una pelle liscia come un bambino. Tommaso, dottoressa Serri, a volte la pelle, come diceva lei, urla. Sì, ecco. Sì, perché in genere quello che ha Tommaso è probabilmente una forma mista di dermatite seborroica su una tendenza alla rosacea di base. Ora tengo a dire, la dermatite seborroica è chiaramente una dermatosi, cioè un disturbo della pelle, ma non è solo della pelle, così come la rosacea. Bisogna sempre, grazie all'anamnesi, che è un po' un interrogatorio su come sta la persona, e a un'indagine sullo stato di salute, sullo stato mentale, eccetera, arrivare a capire che cosa ha scatenato queste cose. Io posso dire, dall'esterno dobbiamo calmare la pelle, dall'interno bisogna sicuramente, io ho notato una grossa connessione, come diceva Tirelli prima, con la situazione intestinale, quindi vedere come sta lo stomaco, come va l'assorbimento intestinale, se è presente colite, come va la pancia, insomma. Come va la pancia, ma lei parla anche quando di fronte a, quando noi vediamo degli sfoghini, noi li chiamiamo così, dermatiti li chiamate voi, anche perché anche la pelle può fare indigestione. Certo. Ecco, è come quando noi magari facciamo un po' di stravizi, abbiamo proprio il desiderio di tornare ad una dieta più leggera, più equilibrata, più ricca di liquidi, anche la nostra pelle avrebbe bisogno ogni tanto di uno stop, di una depurazione. I vecchi medici di un tempo, per qualsiasi malanno, ti dicevano 3 giorni di purga, 3 giorni di digiuno, purga e riposo. Sì, ecco, e devo dire che io sono contenta di vivere adesso. Ecco, però un attimino di digiuno fa bene all'organismo, chiamiamo digiuno un'alimentazione leggera, eccetera. Lo stesso alla pelle, non si capisce perché la pelle debba essere sempre curata quando esprime intolleranza, quando prude, pizzica, eccetera, con tanti prodotti. È come se una persona che ha una gastroenterite acuta si curasse mangiando, provo i broccoli, no, prova le patate, no, mangia il pesce, guarda col riso passa tutto, stai sempre peggio. Sì. Quindi o non fai niente, assolutamente niente, dei begli impacchi di acqua minerale gasata. Ah, gasata. Gasata è meglio, sì, o leggermente gasata, fredda. Nel contempo magari vai dal dermatologo che con la sua indagine, con l'anamnesi, con le domande ti darà una cura opportuna. Okay. Comunque la cura che puoi fare tu è una cura depurativa. Se associ a una cura depurativa esterna, cioè a non usare tanti prodotti, quello che ti consiglia l'amico, la zia, il cugino di quello che c'ha una bancarella di cosmetici da qualche parte. Ecco, se fai qualche cosa di razionale, segui anche un certo tipo di alimentazione e cerchi di capire, tu fai un po' come Sherlock Holmes, cerchi di capire che cosa è successo nel frattempo prima, ferma. Cioè, dai un motivo. Impacco di acqua minerale gasata, vi ricordo il nostro quizzettone, Paraffinum liquidum, dimeticone o l'europea, quale di questi 3 ingredienti è naturale ed ecocompatibile? Essere e benessere. Grasse, sensibili, secche, siete di nuovo qui, 800 24 00 24, nutrimento dall'interno, dall'esterno per la nostra pelle. Professor Tirelli. Sì, ma tra l'altro si parlava prima giustamente con la dottoressa Seri di terapia, però io parlerei anche di prevenzione. In questo senso la pelle può essere veramente aiutata attraverso il massaggio, attraverso pratiche come Benedetta Spada sa insegnare bene col suo yoga. Fa anche dei seminarioni magnifici in Puglia, nel Salento, proprio tutto dedicato a natura, yoga, respirazione, pelle. Chissà come escono da questi seminari, escono tutti luminose e belle. Andremo anche noi, professor Tirelli, mi scusi. No, è solo per dire che appunto per quanto riguarda poi la parte del massaggio è fondamentale cercare di capire perché agisce sulla pelle. Cioè io vado a stimolare, come dicevamo all'inizio della trasmissione, dei punti cutanei particolarmente recettivi a tutto ciò che è stimolo esterno, ma con questo vado successivamente a modificare la matrice extracellulare, il che vuol dire aumentare le funzioni biologiche per esempio di eliminazione di scorie, di certo, cataboliti. Quindi abbiamo una pulizia indotta da ciò che è la cosa più basica della nostra vita, quindi il contatto, come dicevano prima. Il contatto prima, che tra l'altro è proprio una coccola e un nutrimento. D'altra parte la pelle è il più esteso organo di senso, il tatto è tra gli stimoli più piacevoli e rilassanti. Per questo senso c'è sicuramente il contatto con l'acqua. Ne parliamo col professor Mario Cristofolini, già primario dermatologo dell'ospedale di Trento e specialista in medicina termale. Buongiorno prof. Buongiorno. Professore, alla fine di una giornata faticosa, scivolare dentro la vasca da bagno è una vera goduria, ci sentiamo più leggeri, rilassati, coccolati, è merito dell'acqua che è questo elemento vitale per eccellenza che stimola e distende ogni centimetro quadrato di pelle. Ma professore, c'è qualche indicazione per un bagno a tutto relax, temperatura, aggiunte, durata? Ma guardi, la cosa è estremamente semplice, nel senso che il fare un bagno promuove delle reazioni di tipo locale, come un po' di detersione, un riequilibrio del mantello idrolipidico. Ovviamente nelle persone che hanno la pelle secca va aggiunto un olio, perché è l'olio che trattiene l'acqua, quindi l'idratazione viene fatta attraverso la presenza di sostanze oleose. E poi la grande reazione dal punto di vista generale, perché come ha detto, sentivo dire prima, la pelle in effetti è un organo di senso e quindi ci sono le terminazioni nervose, quindi sviluppo di endorfine, ma ci sono anche tutto quello che è il potere immunologico della pelle che viene stimolato attraverso il bagno. Quindi poi cosa ci si mette nel bagno direi che è di secondaria importanza. Però, prego. Professore, io vorrei dalla vasca di casa nostra passare alle vasche termali, o meglio alle piscine, perché qui l'acqua aggiunge, produce effetti differenti a seconda dei sali minerali che vi sono disciolti. Senza dubbio. E naturalmente non parliamo di piscina normale, perché l'aggiunta di cloro non è quella che fa bene la pelle. Parliamo di piscine termali. Le piscine termali, indubbiamente le acque termali si distinguono per il loro residuo fisso, per le sostanze che sono disciolte, e hanno delle caratteristiche diverse a seconda appunto delle queste sostanze che sono disciolte. Possiamo ricordarne alcune? Brevemente, le sulfure sono acque che soprattutto sono antiseborroiche, e la pelle, non dimentichiamo, è fatta da zolfo, insomma, quindi sono le terme per la pelle, però anche le bicarbonato, calcio, magnesie, che sono molto indicate proprio perché sono molto delicate, molto leggere e possono essere utilizzate anche quando la pelle è molto reattiva. E poi ci sono le salso bromo iodiche, antinfiammatorie, genericamente le radioattive, le solfate. Cioè, i nomi sono difficili, ma gli effetti sono garantiti, vero? Ma insomma, ad ogni pelle la sua acqua? Ad ogni pelle la sua acqua. Devo dire però globalmente che è importante fare il bagno. Dopodiché il tipo di soluzione che professore, lei è importante fare il bagno non solo nelle piscine termali ma anche a casa, ma anche nella propria vasca, aggiungendo magari qualcosa di piacevole come certe essenze eccetera. stare attenti, perché quando si parla di naturale poi vediamo molto spesso reazioni che possono essere allergiche o di fotosensibilizzazione. Grazie professor Cristofolini per essere stato con noi. Grazie a lei. Dottoressa Serri, fare il bagno, ma molte persone dopo il bagno si sentono la pelle tutta secca. Certo, l'acqua che tira può sicuramente in alcuni casi, soprattutto in chi soffre di dermatite atopico, in chi è atopico e soffre di asma, rinite, congiuntivite, cioè chi nasce con una reattività allergica è più sensibile a questo, e allora bisogna rendere l'acqua emolliente, aggiungere magari dell'amido di riso, aggiungere degli oli di jojoba per esempio, che mi piace, oli per bagno, eccetera. Però devo dire che molte persone usano per lavarsi dei detergenti che si userebbero per lavare i piatti, ecco. Usano sgrassanti, usano il guanto di Crin, cioè trattano la propria pelle come se fosse uno straccio vecchio. Quindi non dico che è ceramica di Capodimonte, ma però un minimo di attenzione nella scelta del detergente è importante. Camilla da Torino, rapidissima, mi dicono che lei ha la risposta corretta. Olea europea. Evviva Camilla! Beh, solo perché l'adopero. Solo perché l'adopera. Ho dei prodotti che contengono quasi tutti l'olea europea. Camilla, chissà che pelle, Camilla. Grazie per essere intervenuta, Camilla. Grazie alla dottoressa Serri, a Benedetta Spada, al professor Tirelli, e grazie soprattutto a voi, a Pietro Lacorte in regia, alla parte tecnica, e a Laura Vanossi in redazione. Mi raccomando, scaricatemi. Buona giornata, a domani. Essere e benessere.